la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon mercoledì 9 di luglio, sono le 16.35, primi 40 secondi, qui siamo in diretta da Milano, sulla quale incombe una specie di tornado là fuori. Speriamo di non tornare sotto l'acqua come ieri, a nuotare come in Vietnam. Detto tutto questo, andiamo subito al tema del giorno, perché abbiamo pochi minuti, come sapete, quindi l'appello che faccio a voi che siete in ascolto, se volete darci la vostra opinione o mandarci un sms, l'opinione per intervenire 800 24 00 24, gli sms il 349 238 6666, riguarda il lavoro che non c'è, e la domanda è questa: sia che siate un giovane o meno giovane che attualmente il lavoro lo cerca e non lo trova o l'ha perduto, sia che siate un genitore di giovani e siate preoccupato per la disoccupazione giovanile altissima, vi chiedo semplicemente un'opinione: che cosa chiedereste, uno, due punti, non di più, secchi, di cambiare per rendere meno funebre, tetra, atra la prospettiva di chi cerca lavoro e non lo trova, per tante ragioni nel nostro paese, perché non è ben formato per i lavori che, per cui c'è offerta, perché non c'è un sistema di incrocio tra domanda e offerta, perché quello degli uffici provinciali, lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, a malapena incrocia il 2% di chi tra l'offerta di lavoro rispetto a chi poi lo trova, per tantissime ragioni, le tasse alte sul lavoro e impresa. Ma mi serve solo sapere da parte vostra, se avesse la bacchetta magica, una, due cose e non più che cambiereste. Perché? Perché io ho come un'impressione da tanto tempo, a dire la verità, e vi faccio quattro esempi prima di presentarvi un ospite che è molto più competente di me su questo. Io ho l'impressione che noi passiamo tantissimo tempo in guerre ideologiche sulle regole del mercato del lavoro. Fateci caso, quattro esempi, limitiamoci solo al governo attuale, al governo che l'ha preceduto, quello Letta. Letta si convinse della opportunità di introdurre incentivi a tempo per le imprese per aumentare la propensione all'offerta dei posti di lavoro. Io criticai all'epoca, dicendo che io agli incentivi a tempo non ci credo, con la politica che dice lei, tu devi prendere i giovani fino a questa età, le donne fino a questa età, o che è sopra i 50 e 55, cioè con incentivi a tempo, perché secondo me vince poi il fatto che quando scade il tempo degli incentivi, la struttura contributiva delle imposte e le regole tornano esattamente come prima, e quindi non ci credevo. Il governo diceva che chi ragionava così criticava male, sbagliava. Risultato: il governo si aspettava da quegli incentivi 100.000 posti di lavoro, come è giusto, abbiamo fatto passare un po' di tempo per verificare gli effetti. Effetti raggiunti il 28% di quelli che si augurava il governo. Quindi, diciamo, tante polemiche verbali per un, non dico un buco nell'acqua, perché 28.000 è meglio averli occupati in più che in meno, però rispetto a i milioni di disoccupati, ecco. Secondo esempio, enorme contesa anche in quel caso sul decreto Poletti, appena nato il governo Renzi, per le modifiche dei contratti a tempo determinato e dell'apprendistato. Il passo indietro rispetto ai nuovi vincoli che erano stati messi nel decreto Fornero. Enormi cortine ideologiche anche in quel caso, vedremo i risultati. Terzo esempio, la garanzia giovani, lì stiamo parlando di 1,5 miliardi quasi di euro europei, sapete di che si tratta, mi auguro comunque per giovani che escono dal percorso di formazione, impegno delle strutture pubbliche a offrire loro delle occasioni entro pochi mesi dall'iscrizione nei diversi registri regionali e nazionali. Più di 100.000 giovani italiani hanno risposto all'appello e abbiamo appreso che molte regioni sono indietrissimo, che in realtà le offerte che saranno disponibili sono poche migliaia, e io mi chiedo a quel punto se deludiamo 100.000 giovani in questo modo, e non c'è neanche la scusa dei soldi che mancano, sono quelli europei, veramente dove mettiamo la faccia? Ultimo esempio, riparte adesso una grande contesa ideologica sulla delega, la riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, perché vedrete che si alzerà moltissimo il livello dello scontro su che cosa debba o non debba essere il cosiddetto contratto triennale di inserimento a tutele crescenti. Chi aveva polemizzato contro il decreto Poletti lo immagina come la vera autostrada per entrare nel mercato del lavoro, sostitutivo il più possibile di nuovo dei contratti a tempo determinato. Su questa base c'è naturalmente anche nella maggioranza chi la pensa esattamente all'opposto e dice neanche per idea, e anche in questo caso secondo me il rischio di polemica è molto forte. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi ci stiamo prendendo a cornate da anni per interventi al margine del mercato del lavoro, i cui risultati secondo me sono, non dico trascurabili, ma larghissimamente ineffettivi rispetto alle promesse e ai no che le due parti si contrappongono. Io da anni seguo, come appassionato a questa materia, non come certo come espertissimo dotto e accademico, chi su questo tenta di ragionare, per così dire. Fa notare per esempio che ce l'abbiamo, c'è già un'autostrada in teoria che dovrebbe essere quella privilegiata per entrare nel mercato del lavoro, che è l'apprendistato, che trascuriamo e continuiamo a maltrattare. E l'apprendistato non è neanche la prima chance prioritaria, nemmeno per la garanzia giovani che è in corso, per dirne una. Sull'apprendistato i sindacati dicono no, ma è un metodo per le imprese per fargli pagare meno rispetto ai contratti a tempo indeterminato e così via. Però l'ospite di oggi, e ho finito di chiacchierare perché dopo poi parla lui, secondo me fa notare con una certa costanza e con argomenti molto che in effetti spesso smarriamo il vero obiettivo. Tutti questi interventi a margini ideologici e la sostanza ci sfugge. Ecco, l'ospite di oggi è il professor Michele Tiraboschi, che insegna diritto del lavoro all'Università di Modena, Reggio Emilia, che io ringrazio di essere qui con noi. Buon pomeriggio, professore. Grazie. Allora, possiamo cominciare dalla garanzia giovani. Lei che cosa si aspetta, visto i dati che abbiamo letto e scritto in quest'ultima settimana? Mi aspetto che porti qualche risultato, porti l'idea che è possibile anche nel nostro paese applicare delle misure che funzionano nel resto d'Europa, non in tutta Europa. L'Italia è in difficoltà, abbiamo appreso ieri che la Spagna è ancora più in difficoltà di noi, però mi aspetto che il nostro mercato diventi moderno, un mercato europeo, come da 15 anni proviamo a fare, senza però risultati, per tutta quella serie di motivi che ci indicava lei: lotte ideologiche, uso di incentivi che però sono privi dei canali di incontro domanda-offerta di lavoro, e soprattutto, se avessi la bacchetta magica, la capacità di lavorare sul raccordo fra scuola, università e mondo del lavoro. Questa è la grande criticità del nostro paese rispetto a quelli che funzionano. E rispetto invece, può essere che mi sbagli, che ci sarà uno scontro ideologico anche sulla delega, sul lavoro, sul contratto di inserimento, su questo lei come la pensa? Beh, io penso che un contratto unico a tutele progressive già esista, ed è l'apprendistato. Si entra attraverso un percorso formativo, una prova lunga, si entra per imparare un mestiere, si entra in azienda per essere utili, per portare un valore, per portare un mestiere, e poi se si entra e si dà questo valore, questo contributo, è normale che si crei un affidamento, un'aspettativa, e che l'azienda anzi sia interessata a trattenere il giovane. Quindi 3 anni, non tanto perché il tempo passi come un contratto a termine secondo le proposte che vengono avanzate, ma 3 anni per imparare meglio un mestiere, per portare dentro l'azienda freschezza, motivazione, nuove competenze, tecnologie che solo i giovani sanno utilizzare, e poi allora una stabilità fatta, come avviene oggi per l'apprendistato, anche di garanzie formali che però vengono dopo. Quello che è importante per le aziende non è il contratto, ma l'oggetto del contratto, cioè quello che sa fare la persona, le mansioni, i profili professionali. È qui che noi siamo indietro di secoli, siamo ancora nel Novecento ideologico, ma anche nel Novecento industriale. Continuiamo a fare riforme al margine, giustamente, sul contratto a termine, parliamo di articolo 18, ma comunque poi in azienda contano i contratti collettivi, che sono nazionali, che sono rigidi e che soprattutto hanno un sistema di classificazione e inquadramento delle persone, cioè una persona quando entra cosa fa, quali compiti ha, lo stabilisce un contratto collettivo secondo paradigmi del secolo scorso. Questo irrigidisce l'azienda, irrigidisce le competenze, la produttività, la misurazione del merito. Quindi abbiamo un mansionario preistorico, per così dire, anche se il termine non è esatto dal punto di vista contrattuale. Perché almeno per la garanzia giovani non si poteva tentare di incardinarla il più possibile sull'apprendistato invece che sugli stage, in cui io, dire la verità, credo abbastanza poco per quanto ho visto in questi decenni nel mondo del lavoro. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:46, 46 secondi. Parliamo degli interventi sul lavoro di questi anni. Vi ho chiesto che cosa vi aspettereste voi. Tantissimi messaggi, devo dire parecchi, vanno un po' fuori tema, ma naturalmente non voglio convincere chi me lo manda, perché dice no, qui la vera soluzione è uscire dall'euro. Vabbè, d'accordo, però non stiamo parlando di quello. Negli anni 2000 abbiamo abbassato significativamente la disoccupazione precedente, eravamo nell'euro, c'è chi dice che è stato effetto del decreto tregua, di troppo precariato, una cosa e l'altra, però insomma, in parole povere, si è visto che si poteva fare molto di meglio di quanto non stiamo facendo adesso. Un altro pacchetto, per così dire, li metto insieme di messaggi, riguardano le regole troppo complicate. La semplificazione avrebbe un effetto anche sull'offerta di lavoro delle imprese, tantissime riguardano naturalmente le imposte che sono eccessive sulle imprese e sul lavoro. Oggi stiamo tentando di concentrarci sulle regole del mercato del lavoro. Ho chiesto perché almeno sulla garanzia giovani non è stato possibile puntare di più, non dico tutto, sull'apprendistato. Che dice il professor Tiraboschi? Vorrei valutare regione per regione. Il Veneto, per esempio, ha deciso di non scommettere un centesimo sull'apprendistato, con una spiegazione, dicendo: l'apprendistato ha già molti incentivi nazionali, regionali, ha già delle misure specifiche, perché sprecare queste risorse quando poi il problema è intercettare giovani che non sono al momento occupabili, che vanno formati, riqualificati, motivati, che vanno presi in carico, un bilancio delle competenze. Qualche altra regione si è spinta un po' più là e invece sull'apprendistato qualche risorsa l'ha messa. La Spagna ha fatto tutt'altro, la gran dote di incentivi l'ha messa per assunzioni stabili, per assunzioni con contratti formativi. Io direi che è relativo, l'importante è che queste risorse vengano spese bene per raggiungere gli obiettivi. Il sottosegretario all'istruzione addirittura propone di allargare garanzia giovani agli studenti, non riusciamo a farla partire per chi da molti mesi è fuori dalla scuola, dall'università. Mi domando perché orientarla verso gli studenti, anche se anche lì c'è una logica, perché il tema è quello di orientare i giovani verso mestieri, professioni che poi sono richieste. Io ho il pallino dell'apprendistato per un semplice motivo, perché mi piace guardare non solo l'Italia, ma quello che avviene nel resto del mondo, perché molti dicono sì, colpa delle troppe regole, colpa dei vincoli sui licenziamenti, colpa del costo del lavoro. Queste complicazioni ci sono per esempio anche in Germania, in parte in Austria, in Svizzera, in Olanda, e però lì la disoccupazione giovanile è bassissima, è allo stesso livello più o meno di quello degli adulti. Cosa c'è lì diverso? C'è un diverso sistema di relazioni industriali, più cooperativo, e c'è un sistema di alternanza scuola-lavoro, per cui l'apprendistato per noi è offerto come un contratto qualunque a giovani che hanno finito la scuola e l'università, mentre lì è scuola, è università, e quindi si intercettano i giovani dentro i percorsi formativi che vengono orientati verso i fabbisogni, con un sistema di relazioni industriali intelligente, nel senso che siccome l'apprendistato è molto oneroso per le aziende, il costo salariale è molto basso, non c'è solo l'incentivo economico, ma l'impresa ha anche un costo del lavoro basso, perché si sa che il lavoratore, l'apprendista, il giovane che impara un mestiere, deve fare il suo sforzo principale nell'apprendimento più che nel lavoro in sé. Quindi in Svizzera è il 15% del lavoratore qualificato, in Germania è il 30%. Questa è la soluzione vincente. Se avessimo usato le risorse di garanzia giovani sull'apprendistato, quindi su una grande operazione per rilanciare questo strumento, forse avremmo fatto qualcosa di positivo. In piccolo io sono totalmente d'accordo, e temo molto il dibattito invece in arrivo sul contratto di inserimento, perché mi sembra che poi tra quello e l'articolo 18 si gira sempre intorno a questo mito del tempo indeterminato rispetto a una realtà che ci vede a pezzi. Ricordo tutti quello in ascolto, per esempio, che a Lombarda, qua Milano, Brianza eccetera eccetera, da una ricerca che ha condotto insieme a Bocconi, ha dedotto che circa tra un terzo e la metà di tutti i giovani net, quindi che sono fuori dalla scuola e non cercano lavoro nell'area di riferimento, quindi Milano, Lodi, Brianza, eccetera, eccetera, si risolverebbe esattamente incrociando meglio i percorsi formativi rispetto a un'offerta di lavoro che c'è ma non viene coperta. Stiamo parlando di metà, un terzo dei net, quindi non stiamo parlando di numerini. Sentiamo un po' di ascoltatori come la pensano. Antonio Da Lucca, prego Antonio. Io la penso che in Italia, per esempio, il mio figliolo, sì, che ha terminato il diploma l'anno scorso, no? È ancora in cerca di prima occupazione, ormai è più di un anno, sì, che è disoccupato. Perché in Italia tutti i soldi che l'Italia prende dall'Europa non li investe a fare corsi di formazione. Mio figlio, per esempio, dovrebbe fare un corso di formazione a pagamento. Qui i corsi di formazione sono tutti a pagamento. Da tenere presente che la scuola non insegna nulla. Cioè, dopo che ha fatto 5 anni di scuola alberghiera... scuola alberghiera dovrebbe essere professionalizzante. Sì, però il discorso è questo, che non c'è lo stage, cioè il quinto anno per esempio non si fa neanche pratica. Quindi nulla. Non c'è un inserimento diretto. No, Antonio, la fermo qua perché lei ci ha dato un'indicazione. Fondi europei e inserimento diretto. Enzo da Brescia, prego. Enzo. Buongiorno Antonino. Eccoci. Buongiorno Antonino, come sta? Bene. Bene. Ci dica subito la sua idea. Allora, il punto è questo. Io sono del settore alberghiero, le dico solo una cosa. Le scuole alberghiere hanno bisogno di qualcuno che dall'esterno dia più motivazione, ma non perché voglio dire che le scuole non servono a nulla. No, perché lei dovrebbe essere la risposta al problema del padre che ci ha telefonato prima. Cioè, ma no, lei... assolutamente, ma le dirò di più, mi scusi Giannino, sì, le dirò di più. Il punto è, allora, intanto che i giovani vengano sensibilizzati, che il settore turismo, che è un settore meraviglioso, ha bisogno di ragazzi motivati che facciano il domenica, il sabato, lei dice, ho capito Enzo, lei dice c'è un problema anche di bassa disponibilità. Ah, vabbè, sentiamo Enzo da Torino e poi torniamo al professor Tiraboschi. Enzo da Torino, la sua ricetta breve? Sì, breve, allora, io ho una figlia che ha terminato da pochi mesi uno stage nelle risorse umane in una multinazionale estremamente importante, sì, se vuole le faccio anche il nome, non ho problemi. Allora, già dal terzo giorno è stata mandata in giro per l'Italia a fare selezione ad altissimo livello. Questa azienda chiaramente invoglia i ragazzi a darsi da fare come tutti, eccetera, 500 euro al mese, eccetera. Alla fine poi le cose vengono scoperte, nel senso che questa azienda in modo particolare sono anni che non assume uno stagista. Mia figlia alla fine, veramente un paradosso, ha selezionato la persona che avrebbe dovuto prendere il suo posto. Io non dico nulla, ma... insomma, gli stage aziende... Enzo non ci crede. Professor Tiraboschi, qualche risposta al volo rispetto a questo? Primo, i fondi europei come lo utilizziamo? Secondo, come si fa se non c'è il collegamento neanche tra i percorsi più professionalizzanti, in teoria come la scuola alberghiera e le imprese? Terzo, Enzo dice no, io gli stage non ci credo. Lei che dice? Perché queste esperienze sono molto più indicative delle tante teorie, dei tanti dibattiti di sì, che facciamo sul contratto unico, perché in realtà è paradossale, no? Si fa la scuola, ma la scuola pare che non sia sufficiente a formare le persone, per cui terminata la scuola devono fare un corso di formazione. Però facciamo un corso di formazione che non è più legato alla scuola, ma non è legato alle esigenze delle imprese, ma alle esigenze dei formatori. Poi si fa uno stage che viene usato non per formare un giovane per poi investirci, inserirlo, ma viene usato in luogo di un contratto di lavoro, peraltro temporaneo, per poi rimpiazzarlo brevemente. È qui che crolla il sistema. Sì. Crolla il sistema perché non c'è un conto tra domanda e offerta di lavoro fatto con le scuole e con le imprese. Allora, professore, io la fermo qua perché la pronto per un'altra trasmissione su cosa lei pensa ne verrà fuori, proprio sui vecchi centri provinciali dell'impiego e la nuova agenzia di incrocio tra domanda e offerta che ci promettono. Per il momento il tempo è finito, io la ringrazio per oggi, ma la riprenoto. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.